Un animale nella luna, da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Di qui viene un filosofo e proclama che l'uom de sensi suoi fatto è zimbello. Di là ne viene un altro e per sé giura che buon giudice è il senso. Ebben, io dico che sta nel ver filosofia che prova e l'una cosa e l'altra, ove s'intenda con discrezion. Se gli uomini nel senso ciecamente s'affidano, è comun fonte d'errori. Ma rimosso il velo, che al senso fa la lontananza e l'aria in cui nuotan le cose, e i 100 screzi che la macchina umana e gli apparati soffrono nel tempo, ancora il senso estimo che sia netto e fedel specchio del vero. Saggia fu la natura il dì che queste cose ordinò nel mondo, e un giorno, io spero, manifestarne le intime ragioni. Quel sol che vedi di quaggiù, non largo più di 3 spanne, ove potessi in alto nella sua sede giudicarlo, immenso, sterminato, diresti occhio del mondo. Il mio pensier lo immagina. Se il giro con la man ne misuro e lo distendo per l'infinita via che lo divide dall'umil terra. Il contadin lo crede schiacciato scudo, ma il pensier del saggio l'arrotonda, lo ferma in mezzo al cielo e in giro a lui fa camminar la terra. Tutti i miei sensi io nego e so ritrarne contro la stessa illusion dei sensi il ver che v'è nascosto, anche se l'occhio vede color diverso, anche se il suono tardi arriva all'orecchio che l'accoglie. È il mio pensier, è la ragion maestra che drizza del baston l'angolo riflesso nell'onda chiara, e da ragion guidati non sgarrano gli sguardi, e più non sogni capo di donna della luna in grembo. Favola assurda. Ma le macchie e i nei che Cinzia nei sereni pleniluni mostra. Tu pensi esser montagne, dossi che gettano ombre e fan vedere al volgo uomini spesso e bovi ed elefanti. In Albion or non è molto, un dotto astronomo, puntando il telescopio, ben credette veder non so qual mostro nel bel disco lunar. Io non vi dico le meraviglie e il grido della gente. Parve presagio di sicura guerra, e qual presagio? Accorre anche il monarca che suol da re proteggere i sublimi studi e col suo regalo occhio scoperse il mostro. Ebben, che vi credete amici? Fra due lenti rinchiuso un topolino era sola cagion di tanta guerra. O popolo beato a cui null'altra cagion turba la pace, e te beato o buon popolo di Francia, il dì che a questi studi soltanto sacrerai l'ingegno. Marte ha di palme seminato i campi e dietro al gran Luigi e la vittoria fedele amante. Temono i nemici e noi cerchiamo il bel rumor dell'armi, onde liete saranno anche le muse e superba l'istoria. Ahi, ma la pace fia sempre a noi dolente desiderio, non riposo giammai. Carlo, il sovrano signor inglese, poiché molto in guerra di valore brillò, cerca comporre diuturne contese e con l'olivo benedir la pace. O date incenso al benigno sovrano. E v'è missione di re più degna di tal re? D'Augusto non fu l'impresa placida più bella che le geste di Cesare famose? O veramente popolo beato, quando verrà questa diletta pace a ricondur tra noi dell'arte il regno? Fine della favola Un animale nella luna. Fine del libro 7. Questa registrazione è di dominio pubblico.